principessa gentil, ciascun di noi ha il superbo ardimento di sospirar per te. Ma le nostre alme rivalità soffrir non ponno, eleggi qual di noi più ti piace. Tra in fortuna diversa ambo contenti, l'uno delle sue gioie e l'altro si godrà dei suoi tormenti. Ambo dunque per me l'amore ardete, ed ambo mi chiedete chi rifiuti un di voi. Chi sarà poi l'escluso, si turberà, si sdegnerà. Tranquillo. Sereno. Soffrirà la ripulsa. Al rival cederà. Questo è l'amore che per me tarda il cuore. Mi potresti lasciar con tanta pace e sospiri per me. Finto!